visti da fuori. Buongiorno e benvenuta a un'altra persona che ci fa da benchmark, questa volta nel mondo maghrebino, perché lei è una corrispondente straniera algerina. Buongiorno Nasera. Buongiorno a voi. Nasera Ben Ali lavora per il giornale El Watan, un quotidiano indipendente algerino. Nasera, cosa ti ha portato qui in Italia? Diciamo che io mi sono esiliata quasi 20 anni fa a Roma, in Italia, per motivi politici, perché all'epoca in Algeria, parlo dell'inizio degli anni 90, purtroppo siamo stati colpiti di una onda di terrorismo di matrice integralista all'epoca, e molti intellettuali, giornalisti si sono trovati nella mia situazione, quelli che si sono pronunciati contro l'integralismo. E molti di noi hanno dovuto esiliarsi, pensavamo un esilio provvisorio, pensavamo che era un fenomeno che si sarebbe debellato a breve, purtroppo è durato un decennio intero, e diciamo che il mio esilio tra virgolette a Roma è diventato un soggiorno volontario, perché Roma si trova un'ora di aereo da Algeri, e perché l'Italia con l'Algeria, essendo due paesi mediterranei, non mi sono sentita molto spaesata, almeno all'inizio, perché ora mi trovo nel Veneto per altri motivi personali. Da 2 anni vivo confinata nel Veneto e diciamo che è un po' diverso, è un'altra Italia in confronto a Roma, città cosmopolita, è molto diversa. Hai avuto la possibilità di sperimentare due registri, dunque quello regionale e quello un po' più internazionale della capitale romana, ma soprattutto tu sei nota anche per, oltre che per la tua attività di giornalista in Algeria, in Italia per aver scritto un libro, Scontro di Inciviltà, proprio sui pregiudizi che caratterizzano la percezione degli italiani sul mondo musulmano e forse anche viceversa. Qual era l'obiettivo del tuo libro? Beh, diciamo che era un pochino uno sfogo, un po' di rabbia, perché francamente io, da giornalista che ha girato una parte del mondo, non mi aspettavo che in Italia ci sia questa superficialità, diciamo, nei confronti del mondo cosiddetto mondo islamico, perché il mondo islamico è variegato e molto diverso, e quasi non ha senso dire il mondo musulmano, come non avrebbe senso oggi dire il mondo cristiano, perché un italiano, un messicano o un filippino non hanno molto in comune solo per il fatto di essere tutti cattolici, e lo stesso per i musulmani nel mondo. Non mi aspettavo francamente, perché per esempio in Francia, in Germania, in Inghilterra c'è una certa cultura verso questi paesi, anche per il fatto forse di essere state delle potenze colonialiste, e lo è stata anche l'Italia del resto. Diciamo che in Italia non mi aspettavo questa superficialità, questi pregiudizi, addirittura qualche volta pesante. E ho scritto questo libro. Cioè, tu sei una persona che ci ha appena raccontato, ha una biografia importante, quantomeno, e anche di grande sofferenza proprio a causa dell'Islam fanatico. Però, come sottolinei nel tuo libro, un conto è chiaramente denunciare quelle che sono le chiusure, le intolleranze, e un conto invece è completamente ignorare e muoversi sul pregiudizio. In Italia hai trovato soprattutto questo terreno, ma ormai sei qui da qualche anno. C'è un miglioramento? Hai notato un cambiamento nella mentalità? Almeno una conoscenza più profonda, una voglia di conoscersi? Sì, ti ringrazio Irene per questa domanda molto pertinente, perché è questo che facciamo fatica a spiegare, nel senso che io sono laica e siamo la maggioranza di noi musulmani nel mondo, e siamo 1,5 miliardi, siamo laici, viviamo benissimo questa dimensione di appartenere a una cultura islamica, che è una cultura bellissima, centenaria, profonda, profondamente umanistica, e il fatto di vivere la modernità di oggi. I fanatici, gli integralisti ci sono in tutte le religioni e sono, per la nostra fortuna, una minoranza, ma per qualche volta per superficialità, dicevo all'inizio, veniamo tutti messi nello stesso angolo, è quasi a doverci giustificare, perché noi nasciamo musulmani, vale anche ripeto che nasciamo musulmani, poi uno diventa praticante, laico, agnostico, ateo, quello che vuole secondo le sue convinzioni, ma questa appartenenza culturale rimane, perché è la nostra cultura, perché non c'è solo la religione nell'Islam, c'è tutto il resto, e questo facciamo fatica a spiegarlo, diciamo, e su questo è nato questo libro, e su questo che io spesso discuto con i miei amici italiani, non tutti, molti hanno una cultura profonda a riguardo per fortuna, e diciamo che cerco di spiegare questa dimensione nostra, questa quasi schizofrenia del mondo nello sguardo che dà verso i musulmani, perché non dobbiamo essere ridotti solo a questa dimensione religiosa pura. Noi, anche noi lottiamo oggi, e l'abbiamo fatto soli, parlo dell'Algeria negli anni 90, contro il terrorismo integralista, contro il fondamentalismo, e nessuno ci aveva aiutato all'epoca. Oggi tutto il mondo è in fronte contro l'integralismo, ben venga, però va ricordato che l'Islam, che il mondo musulmano, non è uno, non è omogeneo, che ci sono persone che lottano con coraggio enorme, e le va riconosciuto questo merito. Nasira Benali, dunque sono due società, due realtà, due culture che non si conoscono, in qualche modo quelle rappresentate nel tuo libro, che ha il merito di non risparmiarle né all'una né all'altra, quindi molto franco, si mette in una posizione intellettualmente molto onesta. Ora, tu sei una giornalista, hai lavorato per diverse testate, in questo momento per Al Watan, hai lavorato per la TV pubblica francese, per Al Jazeera, per chi altro? Sì, ho lavorato anche, diciamo, ho collaborato con la RAI, ho lavorato anche per altre televisioni arabe, nel senso che essendo bilingue ho avuto la fortuna di far conoscere l'Italia sia al mondo arabofono, nei paesi arabi, che il mondo francofono, perché molti paesi arabi sono anche francofoni. E questo mi ha anche aiutato, diciamo, a vivere tra due sponde, tra due mondi, perché mi faccio l'ambasciatrice dell'Algeria, del mondo arabo, del mondo musulmano, malgrado me, in Italia, e parlo dell'Italia, la spiego, per il mondo arabo in generale. C'è molto interesse verso l'Italia, ovviamente, verso la storia, la cultura, verso tutto quello che fa l'Italia umana, l'Italia aperta, l'Italia colta, e c'è anche una grande ammirazione per questa parte dell'Italia, ma c'è anche interesse per la curiosità per una parte dell'Italia che ormai si è ridotta, diciamo, a superficialità, a luoghi comuni, a avere un po' di antipatia, di rigetto verso lo straniero, verso tutto quello che è diverso. E questo, diciamo, che i maghrebini non lo capiscono, perché per loro l'Italia è stata sempre un paese vicinissimo ai paesi musulmani, ai paesi arabi, alquanto, diciamo, culturalmente parlando, con tutti gli scambi, i festival, gli incontri che si sono fatti le ultime decennie, molti che ho seguito moltissimo, ho scritto su questo. E diciamo che fanno fatica, per esempio in Algeria, a vedere un italiano ridotto a rigettare l'altro semplicemente perché di confessioni diverse, di cultura diversa. Diciamo che fanno fatica su questo a lato. A concepire questo aspetto. Esatto. E ci sono già infatti anche messaggi SMS che arrivano al 349-238-6666 e che ricalcano la mentalità di cui parli tu. Infatti l'italiano non ha ma il benchmark, anche durante questa rubrica Visti da Fuori, è molto bello, bisognerebbe farci un libro forse, raccogliere tutti gli SMS che arrivano mentre si parla, tra l'altro non sollecitati, perché è una parte della trasmissione in cui in generale non c'è l'interazione col pubblico, non è vietata ma non c'è, in cui si parla con il corrispondente straniero che guarda l'Italia e lo racconta fuori nel mondo. Ebbene, se questo corrispondente straniero appartiene a uno dei paesi cosiddetti sdoganati, perché fa parte del G8, perché ha un'economia riconosciuta come se non equivalente superiore, pensiamo anche a statunitensi o canadesi, se è un anglofono può dire qualunque cosa e verrà accettata. Se è invece una persona che viene da un paese qualsiasi, anche d'Europa, che non rientra in questa definizione, allora il primo invito è di tornarsene a casa. Il primo invito che arriva via SMS è di tornarsene a casa. E per una nazione che ha in questo momento 60 milioni di immigrati nel mondo, come gli italiani, fa piuttosto impressione. E, non so, sono stata immigrata anch'io per anni, la cittadinanza a me è stata data dopo 2 anni, il bilinguismo dei miei figli è stato valorizzato all'estero, e quando mi trovavo all'estero naturalmente c'era anche occasione di fare confronti, facevo facevo anch'io la corrispondente per la radio nazionale, forse da questo mio interesse. Non mi sono mai sentita dire da un canadese tornatene a casa se non ti piace, anzi erano sempre, nonostante l'Italia non fosse certo considerata il paese più esemplare del pianeta, erano comunque sempre tutti molto attenti e interessati a cogliere degli spunti per il miglioramento. L'italiano invece non ama molto il benchmark. Nasira, tu quante lingue parli? Ma io parlo quattro lingue, perché sono nata bilingue parlando arabo e francese, poi abbiamo l'inglese, l'abbiamo studiato come lingua terza, e l'italiano, diciamo, ormai sono 20 anni che vivo in Italia, non sono ancora cittadina italiana, devo dire, anche se sono 20 anni che pago le tasse e lavoro in Italia, i miei figli sono italiani e io non ancora, e diciamo che parlo quattro lingue ovviamente, ma penso che sono comunque pochissimo, perché per conoscere il mondo, per diventare cittadino universale, più lingue si sa, più lingue si parla e più apertura abbiamo la fortuna di avere, di acquistare verso questo mondo. Quello che dicevi prima è molto interessante, perché in Italia è vero che da corrispondente noto un certo masochismo, perché per esempio ai miei colleghi americani, inglesi, dalla stampa estera gli si chiede ma cosa pensate dell'Italia, cosa pensate degli italiani, e quasi ci si diverte a sentirsi criticati da queste nazioni. Invece quando noi cosiddetti arabi musulmani ci permettiamo qualche critica, di cui il mio libro, che è stato accolto molto bene, ho avuto molte recensioni, ma anche è stato criticato da qualche ben pensanti, per carità, la critica è ammessa, come no. E diciamo che da noi viene vista un po' male, nel senso che ti dicono e se non ti piace l'Italia che ci stai a fare, detta così in due parole. Ultimamente, dicevo, vivendo nel Veneto, viaggiando tra Padova e Vicenza, e ho avuto la sfortuna dopo 20 anni che vivo in Italia di sentirmi dire straniera di M maiuscolo, mm-hmm. A casa tua si fa così e qui si fa cosa. Come se tu fossi un po' la responsabile anche di questa, adesso ci segnalano via SMS, di tutte le lotte fratricide che si stanno consumando in questo momento in Iraq, Siria, Libia, e quindi perché noi dovremmo accettare l'Islam, e finché, ci spiega anche un altro SMS, la donna non sarà considerata come l'uomo in quei paesi, noi non accetteremo, no? Che persone come te, Nasira Bin Ali, cioè musulmane e donne, possano venire a raccontarci qualcosa. C'è anche chi sostiene invece naturalmente la tua posizione e ammira molto il lavoro che hai svolto. Cosa rispondi? Beh, rispondo che se torniamo allo statuto della donna, io dico per esempio da algerina, vivo in Italia, vedo che in Italia il paese dove si registra più numero di femminicidio, io ho scritto, ho lavorato sulla violenza contro le donne, devo dire che persino nel Veneto al nord non si fa niente per proteggere queste donne vittime di violenza, è tutto discorso politico, ma in realtà non c'è niente, perché penso che in Italia, e lo dico non come provocazione, ma lo penso veramente, che i cani sono più tutelati dalle donne vittime di violenza. In Algeria per fortuna sono state fatte leggi molto dure ultimamente, la maggioranza dei magistrati, avvocati sono donne, perché è un campo che è stato invaso dalle donne, un uomo che alza le mani su una donna la passa brutta, perché con certificato medico va in carcere, dopodiché le chiedono come si chiama e come preferisce il suo caffè. In Italia diciamo che la donna non è mai creduta, deve seguire un processo legale, una tortura mentale finché viene creduta, e spesso è creduta a titolo postume dopo ormai è troppo tardi la vita, esatto. Perché diciamo che anche in Italia su questo lato, parlando dell'emancipazione delle donne, ha ancora un percorso da fare. Grazie. Nasira, ci dedichi un verso in arabo e ce lo traduci prima di lasciarci? Grazie. Allora, visto che non abbiamo avuto il tempo purtroppo di parlare della Palestina, io c'è un poeta palestinese che è deceduto ormai da anni, ma che è molto noto, che mi piace molto, Mahmoud Darwish, una sua poesia che dedica alla madre, ma si può anche capire, intendere come dedicata alla patria. E la leggo prima in italiano, poi in arabo. Allora, di Mahmoud Darwish. Ho nostalgia per il pane di mia madre, per il caffè di mia madre, per le carezze di mia madre, e l'infanzia cresce dentro di me, giorno dopo giorno. Mi innamoro della mia vita, perché se muoio mi vergognerai troppo delle lacrime di mia madre. adesso in arabo, per chi capisce questa bellissima lingua. Ahinnu ila khubzi ummi, wa qahwati ummi, wa lamsati ummi. وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. Grazie. Grazie a te perché hai trasformato questo visto da fuori in un'occasione per esporsi e sentire proprio i brividi della poesia e della cultura altrui. Grazie, grazie a Nassira Benali, oggi protagonista delle nostre chiacchierate con i corrispondenti stranieri. Lei è algerina, lavora per il giornale El Watan.